Please. Ciao Gianni. Che conoscete al volo, manco muovere di Puglia. Sì, non lo so. Buonasera, buonasera. Almeno su questo siete rimasti. Come mi ascolti bene, sì. Cappa. Sono contento, là. Come va quest'ora lì, intanto? Così posso, la verità è... Aspetta un secondo, passo l'altra parecchia, 2 minuti, là. Stacco qua e passo l'altra parte. Ehi. Beh, Gianni, mi senti? E io spero che non mi dico. E dove te ne sei, camerale? Occupa lui, la verità. Stavi già covacciando? No, veramente ero già pronto a fare il ciucucciù, ma invece ti ho sentito, mi sono emozionato e siamo usciato. Sarebbe stato problematico se invece che ammosciassi avrebbe fatto altro. Sei disgraziato, ce l'hai capito già, puzzinoso. Via. Sono nato tanti anni fa io, 52 anni fa. Figurati, io invece 47, la verità. Ma sei più vecchio di me perché c'è i capelli bianchi. Non importa che quello funziona, c'è i capelli neri sotto, la verità. Perché c'ho i neri sotto, poi bianchi sotto non mi sa niente. Ma che funzioni? Perché la geccomeccanica ha riaperto? Là? La geccomeccanica ha riaperto. Scusami, se io ce l'ho i capelli in quelle condizioni sopra e sotto sono invece, cosa c'entra la geomeccanica? Allora, la geccomeccanica era una ditta che aveva le gru, mi si chiede a quello sicuramente lo sa, che aveva le gru, non la gru perché quella si era per sollevare. No, già solleva la sola mia, grazie a Dio. Solo un giorno solleva, anche la notte. Così, meglio così. Quanti pacchi di Viagra prendi? Nessuno, grazie a Dio. Scherzo. Già lo so, già, c'è problemi, ci mancherebbe. E nome Grodino è uscito fuori, Grodino. Predichi bene, vattoli male, 3 giorni senza entrare, cambio. Perché lui ormai è messo male, è messo male fronte. È la voce della verità che ti parla, cambio. E chi è? Su boia, di Hunkele. Disgraziato. E Bento, come va? E siccome non lo sai chi sono io. Ah, non è Antonio, è Alessandro, il parrucchiere. Alex Del Piero. Cavano, gente, e di cosa siete nuovi tenni, di peri, di tutto avete nuovi tenni. No, Alessio che è pornografico. E tu la cruz. Grazie a tutti due, ma siete. La copa mi date, no? Meno male, Alessio si è risvegliato. Si è risvegliato perché era addormentato, capito? In un dormitorio. Questo è un peperoncino. Magari. Beh, resta, tutto bene. Avvicinati il macchio, se no non si sente niente. Come, non si sente il macchio, se non va vicino. Capo, basso. Questo qui è un amplificato che però bisogna parlare da vicino. Rende bene solo da vicino, da lontano. Perché è fatto in modo che non si sentano i rumori esterni, capito? I rumori della famiglia, le voci, le cose. Va bene, andrà bene, sì. Però so che è una scocciatura che ha cosa. Gira, mi metto quell'altro, quello... Sì, a tavolino, non me lo riesco a dire, se non mi ricordo come si chiama. A tavolo? Sì, da tavolo. Metti quello che meglio metti. microfono da tavola. Te lo ricordi che l'avevo portato, l'avevo piantato in mano? Cosa era? Come vuole fare a chiudere? Cosa c'era? L'attacco a 4 lì. Sì, questo ti faccio un bel bene. Ma mi sembra che è uguale a quello che hai tu. Quello che sto usando io adesso. Se ti aggiornerà più, non ti lamenti più. Me l'avete dato tutto. Uia, però io sento bene. Anche da te la voce è perfetta, bari ottimo. No, già si sente tranquillo. È molto chiara la voce, per quello io te l'ho fatto prendere, se no non te l'avrei detto. Lei si è rintintito. Dimmi, cara. Se non vi prenda, quindi ti ho fatto interrompere. Assolutamente, ci mancherebbe. Ragazzi, ma a letto sia adesso? No, scusa, in camera so. Che da dire, a letto un poco fa. La camera dove aggiusti gli apparati, lì. Esatto, sì. Il tuo nido solitario. Cava. Lì puoi sventiare quanto vuoi, basta che da lì non esci. Tutte le sue cianfrusaglie di me. Appunto. Virgola. Allora, adesso, vedi, la sala va a Tucci. Io? Ah, io a Natale sono a casa qua. Sono qua a casa, a Capodanno sono a Usilo in campagna. Da un'amica facciamo l'arrostito lì, porcetto e quanto c'è. E siamo tutti in greffa, con le famiglie. Via da te che ancora la mamma virai. E poi anche quando c'è la mamma radunava tutti a casa, invece adesso ognuno ha con tutto suo. Quando c'è la mamma viva, mio padre a casa li voleva tutti quanti, li radunava tutti a casa, diceva vuole essere a starci un'oretta, due orette, ma fate due orette qui e due orette là e ci vediamo e non bisticciamo. Però li radunava tutti e facevano certe tombolate, ma da divertirsi. C'era una signora che diceva le parolacce che ci faceva un bel ridere, che ravvitavamo sempre, perché ci faceva pisciare le risate. Una volta una ha detto, ci avevo i cardellini sopra la credenza, e ha detto, questa signora anziana ha detto, che bel uccellino con la testa rossa, ma in chi bisogna di sine buda se la pinuccia, oi. Ha detto, cazzo, le dai due a di piazza ancora lo bisogno con un capo ruio. Avanti. Buonasera a tutti, salvatore da questa parte, salvatore Gianni, sentite sotto. Ciao Salvatore, che a buon'ora ti sei svegliato. Sto facendo esercizi di matematica con mia figlia. Stai facendo? Non ti ho capito se è mai forte. Esercizi di matematica. Ah, roba leggera. No, è delle medie, con mia figlia. Vabbè. E cosa stai facendo? Espressione. No, dunque, stanno facendo i massimi comuni denominatori da risolvere con il calcolo della scomposizione per fattori. Ho capito, ma non ricordo, mi ricordo le parole solo però. E quindi chiaramente ogni volta bisogna riprendere il libro, rispolverare quelle che sono le nozioni per poter poi dare una mano d'aiuto, se no altrimenti anche tu rischi di fare un pasticcio, capito? Se non erro, fattori comuni non comuni. Sì, questo è con la scomposizione per fattore comune. Ma chi c'è anche in vuota? anche Alex e Alessio. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Avvicinati il microfono, Alex. Alex, forse non vi siete mai sentiti con Salvatore, vero? Sono negativo, sì. E vabbè, già entro poco adesso, sono tanto. E va. No, è la prima volta che ti sento, però arrivi con un audio bassissimo, la radio è proprio come tonalità, ti sento malapena, il segnale non, è di lusso, però non riesco a sentirti. Forse perché c'ho il microfono lontano, e ora come li ascolti meglio? Decisamente, decisamente. Sei già oltre 9.40, capito? Quindi non riuscire a sentire l'audio è un po' un peccato. Non sentivo per la prima volta. Va bene, no, perché sono attaccato al computer, stavo guardando delle cose, quindi è un po' distante, capito? Allora stavo cercando di fare due cose nello stesso tempo. Ma vabbè, andrà bene, vera, già siamo qua in ascolto, va. Avanti già. E io come ti sto arrivando, Salvatore? Come al solito. Che vuoi che ti dica? No, il segnale mi interessa. Il segnale che non me lo ricordo, il solito, com'è? È solito, è sempre 9.40, fisso, inchiodato, è radio bella corposa, mentre Alex è un po' più, qualcosa in più del 9.40. E Alex è più su di me, è un gradino più su. Alex, confermi? Ha fatto sentire il basso, è ovvio, ma dipende anche dalla posizione dove è lui, dove si trova lui? A cappuccino. Capo, allora è per quello, mi si arriva un po' più dietro dalla montagna, io sono proprio in vetta invece, sicuramente per quello, ma sicuramente anche di meno, non credo che sia molta la differenza, di qualche legnettina o qualche cosa. Di un 5, perché tra il 40 e il 50 il tuo segnale con gli anni è spaccato 40. Prova così adesso, ma adesso non si aumenta un po' più. 2-3, prova radio, sicuramente sta bene, ma non ce la fa diventare questo limitatore, ma tralasciando il rumore di sottofondo arrivi ai 50 con così, però se il rumore sembra di alternata o di sottoalimentazione, non lo so, sento un rumore. Ecco, sottoalimentazione, mi devo comprare per forza l'alimentatore per far funzionare quella Giuli. E vabbè, per calca, sono io contento di quello che ho, va benissimo. Vabbè, passo un secondo in attento, va, in cavalletto, c'è sempre un fa 5 minuti. Era brava lì, sì. Vabbè, sono meno, già lo sai. Dammi 5 minuti per entrare in turbo e siamo a posto. Allora, neanche salutati ci siamo, andiamo bene. Ciao, salutoni, vabbè, sono una settimana che non faccio niente, quindi c'era il mese Mariano, adesso è ora, purtroppo. Il mese Mariano è calato, quindi sul turbo devo fare? Ci devono provare, dammi 20 minuti, 4 minuti, quello che è, mezz'ora, poi torno. E te sei mandrake. Come conigli. Come conigli, è un cazzo, la verità. Io quello che faccio, poi quando finito, la verità non è che dopo 10 minuti sono mezz'ora, un'ora, quello che è un'ora e mezzo. Ma vengo tra poco, là. Faccio quello che devo fare e poi torno. Va bene, non c'è bisogno che lo dicessi comunque. Avanti, Salvatore. Perché sto correndo un attimo un esercizio? Sto facendo ginnastica, scusa. c'è più religione. E tu lo fai il capitolato, intanto, visto? Io lo faccio il capitolato più di una settimana alla volta, quindi sono a posto. Va bene, va bene. Pensa, a te le immagini, Gerish. Allucinante. La scena era. La salvaggia non fa di peggio. L'annuncio, guardate. via. Questo è tutto il discorso, mica l'ha fatto in porra. No, l'ho visto Vispo, E allora, chi che vuole? Alex, lo ricambio a me il controllo, ma penso che se mi arrivi qui ai 45 sarò, penso, la stessa cosa da te. Cazzo, di qua mi arrivi 9.30, proprio sul 9.30. E picchi positivi fa, dopo radio 5, anda a bere mela. La parte si racconta, arriva come segnale adesso. Questo arriva, c'ha il 30 e più, quello lì. E praticamente arriva solo a 9.30. Non credo che non capisco bene io la cosa. No, non sto dicendo quello, perché sono delle appatti che arrivano a 9.30, e 9.30 magari se uno arriva a 9.40 non si vede, capito? Ci sono quelli che arrivano anche a 9.60, dipende. Comunque a me lui mi arriva quasi a fondo, proprio a fondo scala. Cioè non... dovrebbe fare un altro giro, misurare, che è il giusto. Quindi suppongo che sia 9.40 anche lui. Io mi arrivavo ai salvatori qui. Comunque vada, la radio è bella forte, corposa, bella squillante. Oh, la novità oggi, l'avevi sentita? No. Ieri la lettera. Non ho capito, l'ha ricevuto? La lettera, finalmente mi hanno rilasciato il mio nominativo. Ah, auguri, allora sono contento, auguri, pagartene due adesso di tasse. Mi dicono che quella da Radio Amatore costa praticamente 5 euro all'anno. Non riusciamo mai a capire le proporzioni nell'assegnare i costi alle licenze. Non riusciamo mai a capire i criteri che muovono queste cose. Ora faranno a fin fumbo, non so come sia. Comunque, come Radio Amatore sei già entrato? No, negativo. No, perché adesso devo mandare la lettera di una taglia di stavolta con la coppia del versamento per dire che io sto adesso iniziando a trasmettere con la cosa. Però la devo prima mandare. Non posso entrare in radio usando il nominativo se prima non ho fatto la dichiarazione. La fai da gennaio, beh. Guarda, adesso sarò ancora preso con il lavoro questi giorni. Se voglio andarmene in ferie venerdì, o almeno mezza mattinata di venerdì, riuscire a scappare. Poi sono indaffarato sino al 28, proprio indaffarato, non potrò entrare in radio proprio perché non avrò il tempo materiale. A questo punto stavo pensando, per 29. 30-31 non me lo faceva fare nessuno, mandare il versamento adesso, poi che domani me l'avrebbero anche considerato come versamento del 2011, a questo punto lo facevo direttamente a gennaio, anche perché, ripeto, non credo di riuscire a rientrare in radio in prima, quindi tanto lo faccio con calma, stavo pensando proprio nella prima settimana del nuovo anno. Sì, va bene. prendere quel tuo ragionamento, perché sennò poi ti considerano l'anno scorso, cioè quest'anno è 2011, l'anno passato che è quasi finito, ti considerano quell'anno lì, per toccare rifarlo da gennaio. Perché mi aveva messo il dubbio Massimiliano, perché Massimiliano ci siamo sentiti per telefono, però tu guarda, non dovrebbe essere così, dovrebbero, tu puoi scrivere benissimo che il versamento è per il 2012 eccetera eccetera, però ci siamo sentiti praticamente che erano l'ora di pranzo. Io poi dopo pranzo sono riuscito a risentire la signora che con la quale ho parlato stamattina giù a Cagliari, che mi ha detto che comunque anche se un ratto del tempo, che sia una settimana, che siano 10 giorni, va considerato per quello che è l'anno per il quale si sta richiedendo. Tu me lo stai chiedendo anche se è a dicembre 2011, nel 2011 me lo stai chiedendo. E quindi comunque tu mi devi pagare per il 2011. E quindi ho detto sì, però ho detto, a questo punto sono alla fine di dicembre, tanto vai, lo faccio al prigionale. Mi ha detto, beh certo, mi ha detto, non mi fai il versamento, lui mi ha detto per 10 giorni. È chiaro che le conviene farla a gennaio. Si ricorda che però non può entrare in frequenza, non può utilizzare il suo nominativo fino a che non fa non ci arriva la sua richiesta con la copia del bollettino. Così, ok, non si preoccupi, però fare in modo di stare calmo a 8 giorni, 9 giorni, che poi non la utilizzerò nemmeno. Quindi si fa in fretta, dai, arriva velocemente l'anno nuovo. E penso, cavolo, che come stanno andando avanti le stagioni e i mesi, cioè in 6 mesi abbiamo bruciato in un attimo. Ma comunque, e riprendi pure Alex. Ma io l'ho fatto con la posta a peso, non so come pagare questo però è sempre un dovere, anche per continuare a tenere la squadra cittadina, quindi siamo le e va bene, la parte c'è. Allora, se non si sente nulla adesso. Sì, ma lui praticamente, adesso ti spiego, essendo diciamo un tecnico, è riuscito a prendere la patente radioamatoriale facendo solo una voltura, diciamo, senza fare esame, era una domanda fatta. Mandato i documenti, gli è arrivato il nominativo, capito? E capo. Ma dimmi una cosa, ma non sarà che c'è una batteria scarica questa Gelio? Esci che provo a cambiarla, ne ho una carica. Perché mi sembra strano che prima lo modulavo anche distante. Esci a vedere. Che non sarebbe abbassato il volume magari l'amplificazione, metti a 4 tutti e due a vedere. Mo è a 4, non lo senti meglio. Vabbè, direi. Questo è per te, allora, uno lo devi mettere, lo devi mettere tra il 3 e il 4. Non c'è il 3, come sarà tra il 2 e il 4. Così è meglio. Così è di gusto, vero? Se non altro, un po' di potenza in audio è aumentata e almeno riusciamo a sentirti. Perché ho fatto fatica veramente poco fa a sentirti, ho alzato il volume quasi a manetta della radio e poi come è partito già mi ho dovuto Alessà, un altro consiglio lo vuoi, il trimmer sopra, quello V3 mi pare che sia, quello di sopra. Lì la vittina farà andare tutta quanta verso destra, però girala piano piano perché è delicata, quel trimmer lì tocca la far andare verso destra e ti aumenta la potenza. Aspetta, verso destra? Guarda, è girato verso destra. Ok, adesso provo. Oh, vai, già. Io vi devo lasciare, dai. Stiamo andando tutti a nanna, se no non riusciamo neanche a recuperare, se sono attaccato alla radio, buonanotte, troppo tardi. Ma comunque mi ha fatto piacere sentirvi almeno un attimino. Se torna Alessio, salutamelo. Spero di riuscire a farmi sentire prima di Natale, almeno ci facciamo gli auguri. Beh, buon proseguimento e saluto a tutti quanti, riprendi già. Caffa, salvato, va. È stato un piacere anche mio conversare con te. Ti faccio i miei migliori auguri a te famiglia, se non ci sentiamo. E ci sentiamo, poi ci rifacciamo, no? Perché almeno non diciamo che non ce li siamo fatti. Caffa. Buone cose e buonanotte. Avanti, Alex. Alex, ci si. Non piaceva Vittette, non c'era da nessuna parte a questo punto. Quando la cerchi. Vabbè, solo un secondo già. Quelli piccoli mi usa, quelli piccolini. Mi piace, sì. E io. Guarda, sono aspettato qualcosa. Cosa? Una bomba, Ma l'ho girato pochissimo, non sono riuscito ancora a girarlo bene. Ci senti un più. Come non sei riuscito? Dico piano piano. Ma non c'ho un cacciavite, sono con la gente comunque, buro, figurati. Non c'ho un cacciavite adatto. Ah, ci vuole il cacciavite da taglio piccolino, quelli che vendono i marocchini. Copiato. Capo l'ho copiato, perché stavo cercando di girare. Baita non avello, un cacciavite. Aspetta che provo a vedere in cucina, a vedere. Non girare così che se non rovi il microfono. Aspetta che tu che cacciavite poi lo fai. Sembra che non stia girando brutto. Lascialo stare, lascialo, perché c'è il trimmer che è molto delicato, se i cacciaviti che non sono adatti per rompere. Va bene, arrendo. Guarda che ce l'hai forte adesso. Perché non c'è un attimo che provo a allargarlo un po'. Prova ora, si sente già. Sì, io c'è una bella potenza, guarda. Comunque adesso funziona meglio, vero? Andate, esci che le cambio la batteria ora. Sei più presente. Allora, vediamo un po'. Adesso ho cambiato la batteria, dovrebbe uscire meglio. Vediamo. Come mi ascolti già? Ma poco fa. Vabbè, allora è andato tutto a roccia. Oggi butto la batteria nuova, buro. Andà bene, meglio. Ma solo noi due ci siamo frequenti, non c'è altro nessuno. Ebbene, quest'ora cammina. Cammina nonna, so. Io. Vabbè, gira, abbiamo pure un percorso. Adesso mi stavo guardando un film, bello. E tu, computer, non ne hai? Non te ne stai scaricando film? Ah, film no. Il computer ce l'ho appunto nel mobile, tiro il cassetto fuori come nel mobile del computer là. Io ho fatto un cassetto scorrevole, un ripiano scorrevole, cioè è fuori il computer. È già comodo così. Vabbè, c'ha il portatile anche tu, no? Quindi andrà meglio. Oia, beh, gira già, io ti saluto che sento di zampi a nanna. No, ti lascio giocare di Masidi, questo periodo anche per me, io. Abbiamo chiuso se c'era di fortuna, tutti i canti di rigore giubilati che si dice. Certo, panettoni, ne stai consegnando, ma che... A pedane. Ah, a pedane addirittura, sì, su, questo mio. Dai, dunque, poi no, sicuramente i fumanti di quelli no, non avrà preso il braccio. No, fumanti, champagne, facendo tutta quella roba lì. E vabbè, bene che ci sia, lavorare sa. Cappa, no, anche io già non mi posso lamentare. Andiamo. Almeno non riuscire a pagare tutti quanti i buffi che ho, cazzo. Già me ne dà un po' di roba da pagare, fai i soldi giusti per darglieli dato allo Stato, capito? Sono sempre in crisi, ma purtroppo ti dice, ne disemovano di travagliare, sei contento? Ma ingrassare di ballo. E non sto scherzando quando sto dicendo così. Qualche gusto già me lo tolgo anche io ogni tanto. Esco e mi prendo quanto mangio. Quando ci riesco le rifaccio. Purtroppo ogni tanto lo devi fare, sennò casino. Vabbè, non si può fare solo da segregato. No, la zitta ci ha appena esaurito davvero. Già ultimamente, mamma mia, non la stavo vedendo bene. Beh già, io ti saluto così, mi darò un po' garito, mi riposo là. Va bene, dai, un saluto a tutti, anche agli ascoltatori e a te già, già ci sentiamo. Vabbè, ciao, ciao, ciao. Ehi, adesso là, ciao, buonanotte. Comunque, ti faccio i miei migliori auguri se non ci sentiamo. E lo so, quello che ti manca è una bella biondona, vedrai che se trovi la biondona ti basta tutto. Ecco, anche quello magari già arriverà. Buonanotte, già, e ci sentiamo. Ciao, ciao, tante cose belle. Ciao.